forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai. E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei. Soli a questa età non sai, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai. E ci sei che ho lasciato come un treno già passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso. Del giorno è il sorriso che mi fai dentro un mondo disadorno, si distingue più che mai, mette in luce i lati oscuri delle troppe ipocrisie e s'arrampica sui muri come glicci niente. Disincanto sai, come un faro che si è acceso, è il sorriso che mi fai, ci volevi tu a stanarmi l'anima, ci volevi tu che stai aprendo sempre più. Una nuova età, sarà la nuova età, from. Yeah. Scelgo ancora di volare, mentre intorno a quanti ormai preferisco non strisciare per paura di cadere. Se tu sei con me, altre sfide affronterò. Se tu stai con me, nessuna esitazione avrò. Una nuova età sarà. La notte sembra perfetta così per consumare la vita. Io e te siamo fuoco nel fuoco ormai, bruciamo in fretta noi. Siamo fuoco nel fuoco noi. Così una storia importante, non volevo così ritornare. trovarmi già grande. Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu. Sogni che uno fa, come questo che non riesco a togliere dal cuore, da quando c'è, forse anche questo resterà. Uno di quei sogni che uno fa, anche questo che sto mettendo dentro una canzone, ma già che c'è, tanto che c'è, continuerò a sognare ancora un po'. Per me sarà sempre di più. E tu, amore, vedrai che presto tornerà dove adesso no ci sei. Forse un giorno tutto cambierà, yeah. Più sereno intorno si vedrà. Voglio dire che forse andranno a posto tante cose. Ecco perché continuerò a sognare ancora un po', uno dei sogni miei, oh, quello che c'è in fondo al cuore non muore mai, no che non muore mai, se ci hai creduto una volta lo rifarai, no che non muore mai, se ci hai creduto davvero come ciò. Un guaio simile, sa chissà se c'è

giorno passarono di lì due occhi di fanciullo, due occhi che avevano rubato al cielo un po' della sua vernice. E sentì tremar la sua radice, quanto smarrimento d'improvviso dentro sé. Oh, quello che solo un uomo senza donna sa che cos'è. E allungò i suoi rami per toccarla. Capì che la felicità non è mai la metà di un infinito. Ora era insieme luna e sole, sasso e nuvola, era insieme riso e pianto. Oh, soltanto era un uomo che cominciava a dire. Sempre tu, giovane amore mio. Oh! A volte è un fulmine in mezzo al cielo, quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. E quando non si fa capire, è un universo tutto ancora da scoprire. A volte è un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna, può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante, che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Oh, questa carica interiore che si accende, se solo penso che agisce di nascosto, quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio. A volte è così evidente, che non gli importa dimostrarsi alla gente. Ma che bello questo amore ad ogni modo, per quello che ti dà, da come lo si fa, per l'impeto che ha. Oh, è la miccia nel mio cuore quando esplodo di contentezza. Se stanotte stai con me, stanotte stai con me. Guardami, tu mi hai visto mai così, ma che bello questo amore, troppo bello questo amore qui. Voglio dedicarmi solo a mia fede. tutte quelle luci, anche se questo gioco non è, le palline siamo noi schizzate in una folle danza. Fammi respirare solo un attimo di pace, questo sorso d'aria pura finché c'è. Voglio dedicarmi solo agli affetti a me più cari, specialmente se si tratta di te. Fammi assaporare questo attimo di pace, via da ogni guerra che anche tu non vuoi, dalle raffiche di immagini e spargimenti vani di chiostro velenoso intorno a noi. Oh, no, no. Un momento così, chissà quando poi la noia. Cosa si fa? Dove si va? Questa sera. il passato in memoria, il mio futuro vivrò, lo custodirò con la forza che sento in me, è un sogno d'amore che non finirà. sai, vive un momento più difficile che mai. Non è bastato aver tagliato i ponti, non è servito aver pagato i conti. Se poi resta questa mia maniera d'essere ancora fragile, io vorrei sapere se ci sei o sei soltanto un volo inutile. Dove sarà, anima mia, senza di te mi butto via. Dove sarà, anima bella, dove sarà?

più te. Cuando tu pecho se va a encender, como dos pequeños volcanes, quiero sentirlos en mis manos, donde tu instinto se une al mío, encontrarnos allí y las almas se unirán. La noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida en los dos, porque estamos buscando amor. Y el no esperar es la emoción más directa que hay, mas no será infinita, porque somos fuego en el fuego y ya estamos quemándonos. Fuego en el fuego, esta pasión, la tuya y la mía, es casi un juego ya. Mezcla de música y fantasía hace subir las emociones, todas las sensaciones, sube hasta el sol y que por tu piel lo más dulce que hay, y las almas se unirán. La noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor. Y el no esperar es la emoción más directa que hay, mas no será infinita, porque somos fuego en el fuego y ya estamos quemándonos. Abrazado a ti, te sentiré, así te sentiré. La historia es esta, la noche es casi perfecta, así disfrutaremos la vida los dos. Somos fuego en el fuego y ya estamos quemándonos. Yeah, yeah, yeah. Somos fuego en el fuego hoy. Somos fuego en el fuego hoy. Deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul. Cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, all you can, you gotta take this life and live it. All you can, and never let it go. There's one thing in this life I understand. Oh, all you can, you gotta take this life and live it. All you can, all you can, never let it go. Cause there's one thing in this life I understand. Oh, you get poor, afferra questa vita e stringi più che poor, you get poor.